Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ammettetelo, quanti di voi non hanno almeno una volta detto, facciamo così, neanche detto, quanti di voi hanno almeno una volta sognato di lasciare la città e aprire un bed and breakfast? No, no, di solito, scusate, di solito è un agriturismo in campagna, ma anche un bed and breakfast va bene. Ecco, se l'avete mai pensato almeno una volta, rimanete ad ascoltare la puntata di oggi, perché in questa edizione speciale di Voi Siete Qui del mese di luglio abbiamo messo insieme, come stiamo facendo da qui fino alla fine del mese, mettiamo insieme due storie che ruotano, che gravitano insieme allo stesso argomento. L'argomento di oggi potrebbe veramente essere bed and breakfast o, tra parentesi, i sogni. Perché se avete veramente il sogno di aprire un bed and breakfast, questa puntata vi racconta gli estremi di quel sogno. Vi racconta nella prima parte, quella che sto per raccontarvi adesso, vi racconta come quel sogno sia realizzabile, come si possa mollare la città, si possa mollare un lavoro che, per l'esattezza, nel caso di Paolo era un lavoro da funzionario, funzionario commerciale nel mondo della comunicazione pubblicitaria. Quindi insomma una roba molto di città, insomma anche di provincia. Quindi se siete fate una roba simile, comunque fate un lavoro di ufficio, c'è la possibilità di mollare tutto e aprire un bed and breakfast. Adesso vi racconterò meglio come e in che modo, anzi lo racconterà meglio direttamente Paolo, lo farò io con le sue parole. Nella seconda parte invece c'è il lato opposto, come dire, il lato oscuro della forza, perché è vero che bisogna frequentare i propri sogni, bisogna seguire i propri desideri, però delle volte bisogna farci molta attenzione. Quindi vi ripeto, in entrambi i casi, se avete magari adesso che siamo arrivati al mese di luglio e manca poco le vacanze, siete stanchi e state per dire, l'avete già detto, magari l'avete detto ieri sera a vostra moglie, a vostro marito, ma guarda, perché non vendiamo tutto, perché non lasciamo il lavoro e apriamo un bed and breakfast? Ecco, gli auguri che vi faccio con questa puntata sono due. Il primo è, beh, in bocca al lupo. L'altro è, occhio. L'antefatto vuole che fossi un funzionario commerciale nel mondo della comunicazione pubblicitaria. Ovviamente quando si parla di pubblicità si parla di Milano. Di quella Milano freddissima d'inverno e caldissima in estate. Dove ho passato 12 anni a chiedermi se fosse davvero quella la vita che sentivo mia. Spesso mi riascoltavo il discorso di Steve Jobs all'università di Stanford. Dovete trovare le vostre passioni, diceva lui. Non perdete la fiducia. Se non le avete ancora trovate, cercatele, continuate a cercarle finché non le trovate. Non accontentatevi. Quelle parole mi suonavano dentro tutti i giorni, quando insieme alle giacche e alle cravatte sentivo di indossare maschere adatte alla bisogna, accantonando qualcosa di importante. Prima di cambiare la mia vita vivevo a Milano, vestito in giacca e cravatta. Andavo in giro per clienti, per appuntamenti, vendevo pubblicità in televisione. A un certo punto non mi è più piaciuto e ho cambiato vita. La crisi ha travolto insieme a tante altre cose anche il mondo della pubblicità. Le riunioni in ufficio sempre più pressanti e incalzanti. Nell'ultima addirittura il mio ormai ex direttore commerciale ci disse: se non l'avete capito, qui è cambiato tutto. Voi dovete pensare che vendere sia una guerra. Ora siete in trincea e voi siete i soldati pronti a combattere. Guerra, trincee, soldati pronti a combattere. Io sono un amante della natura, sono un pacifista convinto e amante della cucina, al punto che i weekend, per sopportare il resto dei giorni, mi dilettavo a svolgere attività di chef a domicilio. Sono un amante dei libri, della musica, delle parole, dei film. Io non volevo fare guerre, ero là a prestare il mio lavoro. A quel punto la decisione l'avevo già presa. Si trattava solamente di pronunciare queste parole. Senti capo, in guerra vacci tu, io vado a vivere al mare. E la decisione l'ho maturata, penso, in un istante, la notte del 31 dicembre del 2011. La reazione che ho avuto dalla gente che mi conosce, tutti mi hanno detto che ero coraggioso. Io ho sempre pensato che i coraggiosi fossero loro. E così è stato. Sono passati 3 mesi. Sono venuto a vivere nella Maremma toscana, a Grosseto precisamente. Con infiniti sacrifici ho messo in piedi dal nulla il primo e unico, lo dico con orgoglio, bed and breakfast letterario in Italia. Da solo, senza conoscere nessuno a Grosseto e contro il parere di tutti coloro che mi conoscono, amici, famiglia, ho messo in piedi il mio sogno. Alla fine è venuto tutto come desideravo ed è stato un successo. Gestisco tre stanze, ciascuna dedicata a un libro che mi rappresenta: Il Gattopardo, la mia parte siciliana, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Sogno e la Follia, e Cyrano de Bergerac, L'Amore e l'Onore. Tutti gli ospiti che arrivano trovano sotto il cuscino un libro, e a loro volta devono lasciare un libro che troveranno gli ospiti successivi, e così via. Un modo per fare girare gratuitamente e in modo divertente i libri. Sono stati mesi di lavoro durissimi, in cui ho impiegato tutte le mie risorse ed energie. Ma ho aperto, i primi clienti sono arrivati e adesso sono felice, come mai prima d'ora. Basta, me ne vado. Questo è troppo per chiunque. Ho sopportato abbastanza, non ce la faccio più. Preferisco vivere. Quanti sono i modi di esprimere la fine di una fase della vita? Che si tratti di una storia d'amore o di un rapporto di lavoro che finisce, del rapporto con una città che si è esaurito, quasi sempre la accompagniamo da motivi profondi. Chi non ci ha mai pensato? E quanti lo hanno detto? Paolo lo ha fatto. Qualche anno fa mi sono ritrovato senza lavoro. Nello stesso periodo avevo dei trascorsi sentimentali piuttosto complicati e quindi ho deciso di staccare, di andarmene a tempo indeterminato. Dopo aver preso la decisione mi sono domandato che cosa volevo fare per staccare. Una sera telefono al mio amico Mauro per raccontargli, gli dico: guarda Mauro, ho deciso di staccare, guarda, lo voglio fare ma niente, non ci riesco, ci provo ma non ce la faccio. Perché non vieni a Narni? Mi dice lui. Ci devo stare un po', se vuoi. L'idea di staccare a Narni mi piace. La casa di Narni in Umbria l'ha costruita il suocero di Mauro. È una casa completamente isolata in mezzo a un bosco di querce sull'Appennino Umbro. Si raggiunge attraverso un sentiero e anche solo per fare la spesa devi prendere la macchina. Isolamento a parte, è una casa fatta per stare in compagnia, con tante stanze da letto, una grande cucina col camino per cucinare la carne alla griglia e un prato davanti alla casa, con tavoli, sedie a sdraio, panchine circondate dai cipressi. È così tanto in mezzo al bosco che la casa è impregnata del buon odore del legno. Il giorno dopo chiamo Mauro e gli dico che va bene, che vado a Narni. Lui deve starci perché in quei giorni sta lavorando in Umbria e quando gli viene comodo si appoggia là. In sto posto è difficile anche farsi un caffè, mi dice. Mio suocero è un inventore, ha manomesso tutto a suo piacere, quindi è inutile che ti spieghi l'acqua calda, la luce, il camino, ci provi da solo, se ci riesci bene, se no inventati qualche altro modo. Dopo qualche giorno Mauro parte e io resto da solo. Tiro giù le piante secche, spacco la legna, ripulisco il fondo del bosco, accendo il camino e cuocio la carne. La sera la passo a curiosare nelle librerie delle stanze. Mi scelgo qualcosa di curioso da leggere e vado a letto. Sento che sto staccando. Era quello che volevo fare e lo sto facendo. Le giornate passano, giorno dopo giorno. Una sera, mentre sono intento a raccogliere foglie, suona il telefono. E Mauro mi dice che l'indomani quattro suoi colleghi si fermeranno con me qualche giorno e non mi daranno fastidio. La cucina la useranno solo a colazione e così rientreremo delle spese di riscaldamento. Mi chiede se ci posso pensare io. E io ci penso. Scelgo dove metterli in modo che io non dia fastidio a loro e loro non lo diano a me. Cerco la lenzuola, gli asciugamani. Do una pulita al bagno. L'indomani quando arrivano mi faccio trovare con il camino acceso. Ho voglia di accoglierli e di chiacchierare un po'. Passiamo quattro sere a girare grigliate davanti al camino. Non l'avrei mai detto, ma sono diventato un oste. Dopo qualche giorno i quattro vanno via e un po' mi dispiace. Vorrei subito qualcun altro. Ne parlo con Mauro e lui mi dice: guarda, basta che mio suocero non si accorga di niente, ma tanto ora è freddo, lui non viene. Per me va bene. Contatto degli amici a Perugia per cominciare a spargere la voce. Mauro si propone anche come cuoco nel caso in cui gli ospiti lo richiedessero. Un giorno, proprio mentre sto dando il benvenuto a una coppia, il vero padrone di casa, il suocero di Mauro, si presenta. La miglior difesa è l'attacco, penso, e lo metto in pratica. Parto subito con le presentazioni. Poi prendo da parte il padrone di casa, gli racconto di quanto è bella casa sua, di quanto si stia bene, e lo ringrazio mille volte. Lui per fortuna ci casca, anzi, inorgoglito dalle mie parole, tratta i miei ospiti come fossero i suoi. Quando se ne va, li abbraccia come fossero amici di sempre. La sera ai clienti racconto che quel signore che hanno visto nel pomeriggio è un vecchio solo che, da quando sono qui, passa spesso a chiacchierare. Io lo lascio fare e lui fa come se fosse il padrone di casa. Ci ho passato poco più di 3 mesi, in quella casa e in quel modo. Poi, proprio quando ci stavamo prendendo gusto, il mio lavoro si è rifatto vivo e sono tornato in città. A parte la mancanza di un cappuccino e un cornetto con il quotidiano al bar e il bisogno fisico di una connessione veloce, è stato un bel periodo. Io ancora non sono stato colpito dalla repulsione nei confronti della città. Ma nel momento in cui dovesse succedere, so dove andare. A Narnia. About a young idea, and if a town walker is still trying. In the city, there's a thousand things I wanna say to you. Mi sono trasferito in Burundi dopo anni di ufficio a fare il perito agrario, scrive Lele. Poi ancora, ho mollato il grigiore di Milano per trasferirmi in uno splendido paesino paradisiaco del Messico. Lavoravo e stavo bene, ma dopo quasi 5 mesi ho scoperto di essere embarazzata e sono tornata in Italia. Ma il mio animo scalpita per tornare con la mia piccola. Roberta, embarazzata credo incinta, voglia dire, no? Grazie Margherita che annuisce. Paolino invece mi guardava con occhi imbarazzati. Facevo la maestra d'asilo, ora sono imprenditrice agricola con un agriturismo sul lago di Garda. Lucia, solo persone che hanno mollato la loro città e hanno realizzato quel piccolo sogno a portata di mano, che era lì, che era un'attività in campagna o dove volete, in un luogo però che gli piacesse più della città. 800240024, è tutto perché Paolo, non meno di un anno fa, era luglio, l'ha fatto. Pronto Paolo? Pronto Matteo, ciao. Come stai? Bene, benissimo. Innanzitutto, quando parlavo di sogno a portata di mano, questa cosa mi è venuta in mente perché io ho parlato con te poco prima della diretta e tu mi hai detto, questa roba si può fare. Si può fare molto più di quanto uno non pensi. Bisogna mettersi in moto, partire e poi tutto viene da sé. Partiamo dall'inizio allora, tu facevi un lavoro nella pubblicità, giusto? Quindi... Sì, io lavoravo a Milano per un gruppo editoriale televisivo. Quindi vendevi spazi? Facevo commerciale, vendevo pubblicità. Ok, poi c'è stato, vabbè, insomma, non è un grande periodo questo in assoluto e non lo è per la pubblicità. Non è un grande periodo, Milano non mi dava più quello che pensavo e a un certo punto durante una riunione in ufficio, come ti scrissi nella mail... Decisi di dire che me ne sarei andato, non potevo sopportare l'idea di dover mettere la giacca, la cravatta, cambiare quotidianamente una maschera, volevo vivere la felicità. C'è una, immagino che sia una curva graduale, no? Che però a un certo punto raggiunge un picco e ti si accende una luce e dici ok, veramente basta, no? Quando è successo? È successo, guarda, paradossalmente il 31 dicembre del 2011, tornando dalla mensa dei poveri, ero andata a servire alla mensa dei poveri, la gente faceva confusione a Milano, suonavano i clacson, buttavano le cose dai balconi, io sono tornato a casa e ho sentito un vuoto, un buco dentro, ho detto non sono più felice, Milano non è più il posto in cui voglio stare. Ed era il 31 di... Okay. Mia mamma avvertì che avrei cambiato vita e così è stato. Quindi era, scusami, non il 31 ma era il 1 di gennaio del 2012, sì, era sì. Poco più di un anno fa. Tu hai sfruttato una possibilità, mi dicevi, che era quella che in realtà la casa, l'appartamento, la casa, sì. Era di famiglia. Un colpo di fortuna volendo. Ok, era in vendita e invece hai detto no, sapete cosa, la tengo io. Sì, esatto. Tu avevi esperienza. Avevo questo sogno da tanto tempo del bed and breakfast letterario e ho messo in moto tutto ciò che poi è servito e ho fatto tutto da solo, dal trasloco a seguire i lavori, facendo avanti e indietro, Milano, Grosseto, dormendo in macchina, dormendo in spiaggia. Però alla fine quando io ho visto che era tutto fatto, che era tutto finito, che era tutto come speravo che fosse... neanche ci ho pensato, i sacrifici non esistevano. Quanto tempo ci hai messo? 6 mesi? 4 mesi? Eh, da quando sono partito burocraticamente, quindi da febbraio-marzo, sì, 4 mesi, dovendo rifar completamente i lavori in casa, ristrutturandola del tutto, rendendola assolutamente fruibile con un bed and breakfast. Avevi esperienza di ospitalità? Però dicevi che facevi lo chef nei fine settimana, dal quindi... punto di vista dell'accoglienza, no, a parte gli amici che sono sempre stati benvenuti a casa. Per 5 anni a Milano, proprio per compensare quella sofferenza del mio lavoro, da un lato, anche se mi piaceva molto, il fine settimana facevo lo chef a domicilio, andavo a cucinare a casa delle persone, cucina vegetariana, perché sono vegetariano da quando ho 17 anni, ed era il mio modo di sopperire, di fare qualcosa che mi piaceva. E questa cosa poi a un certo punto ha preso il sopravvento, io ho deciso di vivere le mie passioni, quindi qui posso cucinare, faccio le colazioni ai miei ospiti, suono la chitarra, leggo i libri. Mi dici che cosa hanno detto, le facce che hanno fatto le persone che ti erano vicine, amici, parenti, ti hanno ostacolato, hanno avuto paura? No, di questa... No, ostacolato no, però tipo se anche mia mamma, giustamente una mamma che sente dire al figlio cambia vita, mi ha detto: Paolo, pensaci bene, stai cambiando del tutto. Io non ho ascoltato nessuno, gli amici, i colleghi mi hanno detto: Paolo, come sei coraggioso, vai in un posto che non conosci, a fare un lavoro che non hai mai fatto, lasci la tua città, i tuoi amici. E io ho dato a loro di coraggio sia per stare a Milano in questo periodo. Tu tra l'altro mi dicevi che la cosa strana che è successa è che dopo che tu hai fatto questa scelta, in 5 amici tuoi hanno fatto una scelta non simile alla tua, ma simile a quello che loro avrebbero voluto fare. Sì, perché hanno visto che si poteva fare, si sono specchiati. Io lo dico a chiunque in questo momento ci sta sentendo: se avete un piccolo sogno, se avete un'idea, non pensate che sia difficile, che sia impossibile, mettetele in piedi, è il momento opportuno. Paradossalmente la crisi apre un sacco di opportunità e di spiragli. Qual è però la paura più grande che hai, Paolo? No, non ho paura assolutamente, sono contento. Io mi sveglio la mattina alle 6 ogni mattina, rido, sorrido, giro per la Maremma, scopro posti nuovi, paure non ne ho. Ho questo piccolo senso di solitudine perché i miei amici, che sono le parti vitali del mio cuore, della mia anima, sono lontani. Come si chiama il tuo bed and breakfast? Così lo diciamo. Al Sognalibro. Mi dici che libri ci sono sotto il cuscino adesso? Sono i libri che hanno lasciato gli ospiti precedenti. Cioè, guarda, sicuramente Paola di Isabel Allende, c'è il libro di Francesco Piccolo. Un libro di Francesco Piccolo, okay, di cui non ricordo il sulla nome. Quello sulla felicità, forse. Piccole, bravo, piccoli, okay. Momenti di intrascurabile felicità. È la vita oscena di Aldo Nove. Paolo, io ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto, davvero. Grazie, Matteo. Ciao. In bocca al lupo a voi tutti. Buona giornata. Ciao, grazie ciao, mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Siete qui. E come vi dicevo, quello che avete appena sentito qui a Voi Siete Qui versione di luglio, sempre Radio 24, era il lato buono di questa storia, il lato buono dei sogni, quelli per cui uno decide di cambiare vita e di fare un passo che sembra complicato, però dal punto di vista di Paolo non è nemmeno così tanto. È vero che lui aveva una casa di proprietà e questo fa la differenza. Ha semplicemente adibito la casa a bed and breakfast. E adesso viene invece la parte un po' più complicata, perché è la storia di Stefano. Stefano ha un posto magnifico, anzi, se magari state cercando un bel posto dove passare le vacanze e non sapete dove andare, cercate online poggioalpruno.it. Lo diciamo perché la storia di Stefano è una storia, vi dicevo, un po' più complicata di quella di Paolo, che ha a che fare con il buttarsi, ha a che fare con i sogni, ma anche un pochettino ha a che fare con gli incubi. Ho 56 anni, sono toscano e ho sempre inseguito un sogno, quello di acquistare un casale e svolgerci un'attività turistico-ricettiva nella mia terra. Tutto si è avverato nel 1997, quando la mia vita era libera e serena,